Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, come ha giustamente annunciato Simone Spezia, parliamo di Grecia e lo facciamo con la nostra inviata Valeria De Rosa. Intanto, buongiorno Valeria. Buongiorno a te Gigi e ai nostri ascoltatori. Allora, dove sei in questo momento nel tuo esplorare la città in queste giornate particolari? In questo momento mi trovo proprio nel centro di Atene, sono tra Piazza Sindagma e l'università, sicuramente una delle zone più belle della capitale ellenica. Ecco, abbiamo sentito nei tuoi collegamenti precedenti alcuni elementi che direi che possiamo sintetizzare rapidamente. Uno, che la città è molto tranquilla, che non ci sono quelle code diciamo preoccupate che in qualche modo si ipotizzavano, insomma che c'è, si può dire, il clima della grande attesa. C'è un clima di grande attesa, ti devo dire che c'è anche forse un po' un clima di rassegnazione. Le file ci sono, è innegabile, davanti ai bancomat ci sono delle code, ma sono comunque code che al massimo arrivano a 7-8 persone, sono molto composte, ognuno aspetta il suo turno, e così è anche per i pensionati che questa mattina hanno atteso la riapertura degli istituti di credito per prelevare una parte delle proprie pensioni. Poi bisogna anche tenere conto che ci sono degli istituti bancari che ovviamente hanno più correntisti rispetto ad altri e che quindi le code variano anche in base a questa motivazione. Ho già detto precedentemente, sono terminati i piccoli tagli, quindi non è più vero che i greci possono prelevare 60 euro al giorno, perché i tagli da 20 e da 10 sono esauriti, quindi dalla mezzanotte di ieri prelevano 50 euro, questa è la somma massima, ecco, che è possibile prelevare giornalmente. 50 euro al giorno, parli di rassegnazione, una rassegnazione che a tuo avviso porterà l'intero popolo greco comunque a schierarsi in una scelta o nell'altra, o c'è anche in qualche modo un'ipotesi astensione che può avere un peso? Da quello che percepisco io, l'astensione in questo caso non credo che avrà grossa parte. Sicuramente ci sono ancora moltissimi indecisi, e gli indecisi sono anche nelle fasce medio-alte, quelle che magari si poteva ipotizzare fossero più vicine al sì. Sono anche loro molto indecisi, perché devo dirti Gigi che ho avvertito proprio la sensazione di essere stati un po' schiaffeggiati dall'Europa. Io stamattina sono andata davanti all'Università di Atene, ovviamente ho incontrato molti ragazzi, gli studenti, che sono quasi tutti a favore del no, però sono a favore del no pur ritenendo di dover restare all'interno della moneta unica. Percepiscono questa Europa come un'Europa che difende molto più le banche e quelli che sono gli interessi dei più forti, piuttosto che una popolazione che sono 5 anni che ha a che fare con l'austerità. E ti devo dire, per quanto la città sia molto composta, molto pulita, molto ordinata, il numero di persone che ho visto dormire in strada questa volta rispetto alla scorsa volta, quindi a gennaio, è quantomeno raddoppiato. Quindi composto, ed allora ecco, in questo ci aiuti anche a capire meglio questo aspetto della rassegnazione. In questo momento ti sembra dunque che il sentimento dominante, forse comunque che si afferma, sia quella della delusione nei confronti di un'Europa che si occupa di banche e non di gente? Sì, è questo, e bisogna anche tener presente che il popolo greco è un popolo estremamente orgoglioso. Quindi la loro dignità la difendono con i denti e non vogliono, diciamo, vedersi proprio ridotti allo stremo, non più di quanto già lo siano, da ulteriori misure di austerità, ulteriori tagli, ecco. Ulteriori tagli in una città che, come Valeria De Rosa ci ha raccontato anche visivamente rispetto appunto ad esperienza a missioni precedenti in Grecia, segna tutto il peso di questa lunga crisi. Grazie a Valeria De Rosa, buon lavoro, naturalmente la risentirete nel corso di queste giornate in vista della domenica del referendum. E con questo è tutto anche per Europa 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.